compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Messico con Pino Cacucci. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. L'idea per questo programma mi è venuta un giorno in un bar mentre bevevo un caffè. Sulla bustina di zucchero c'era scritto «Smetti di partire e arriverai». E mentre leggevo, ho riflettuto sul fatto che forse proprio in quella frase poteva esserci un nuovo inizio. Al di là delle massime prestate al marketing, come nel caso della mia bustina, i libri mi hanno sempre fatto compagnia nelle mie partenze. Leggere è un po' come cominciare un viaggio. È da qui che è partita l'idea di far visita al mondo, quello reale, quello dei paesi e delle città che esistono veramente attraverso le pagine degli scrittori. E visto che da qualche parte si deve cominciare, sono partita da un libro che ho letto recentemente e che parla del Messico. Nome Messico, capitale Città del Messico, confini. Nord con gli Stati Uniti d'America, sud-est con il Guatemala e il Belize, Oceano Pacifico a ovest e sul Golfo del Messico e sul Mar dei Caraibi a est. Superficie 1.964.375 km². Abitanti 110 milioni, di cui quasi 20 milioni nella sola capitale. Clima tropicale al sud, temperato sugli altipiani, secco a nord. Forma di governo Repubblica Federale. Lingua spagnolo e più di 60 lingue indigene. Fuso orario 6 ore indietro rispetto all'orario del meridiano di Greenwich, 7 ore indietro rispetto all'Italia, 8 ore indietro con l'orario legale. Documenti. È necessario il passaporto, con validità residua di almeno 3 mesi al momento dell'ingresso nel paese. Moneta, pesos, un peso uguale 0,06 euro. Religione, al 90% cattolica. Prefisso internazionale, più 52. Corrente, 110 volt, prese americane. Buscando una fiesta. Il libro che mi ha fatto venire voglia di Messico è di Pino Cacucci, che con questo paese ha instaurato un rapporto quasi corporeo, forse perché ne ha respirato la polvere, e infatti il suo libro si intitola proprio La polvere del Messico. Carlos Fuentes, scrittore messicano, in un suo romanzo dice: «Non si può raccontare il Messico, si deve credere nel Messico». E leggendo le parole di Cacucci viene facile farlo, anzi sembra quasi naturale. Naturale come la mia decisione di incontrarlo per farmi raccontare di persona cosa quella polvere gli ha lasciato dentro. Nel giro di qualche giorno riesco ad avere il suo numero e lo chiamo. Fisso un appuntamento per un'intervista. Pronti? Allora, quando ci possiamo vedere per l'intervista? Sì, adesso ho un sacco di andirivieni con le presentazioni dei due libri appena usciti, quello su Frida e l'altro, la graphic novel, e quindi direi potremmo fare giovedì mattina in libreria, se tu puoi. E così, una gelida mattina di metà dicembre, prendo un treno da Pavia e vado da lui. Porto con me un registratore, perché non sono le sue parole quelle che voglio, almeno non solo. Quello che voglio è la sua voce. Sono le emozioni che la sua voce mi può raccontare. I treni sono tutti in ritardo e fa un freddo polare. Riesco comunque a prendere il Frecciarossa, che in meno di un'ora mi porterà da lui. Il viaggio comincia già da qui. Tutto è ricoperto di ghiaccio ed è tutto bianco. Sembra di attraversare il nulla. Nello scompartimento fa un freddo tremendo. Forse è un modo per prepararmi al caldo del Messico, chi lo sa. E mentre cerco di ripassare le domande che vorrò fargli, mi viene in mente una scena di Puerto Escondido. È stato proprio Pino Cacucci con Gabriele Salvatores a scrivere la sceneggiatura di Puerto Escondido. Ma perché hai scelto Puerto Escondido? Mi piaceva il nome. Sono arrivata, scendo, e anche a Bologna la temperatura è decisamente invernale. Prendo un taxi per andare in piazza Galvani, perché siamo d'accordo di vederci alla libreria Zanichelli Feltrinelli. Lì c'è una saletta dove possiamo stare tranquilli per un paio d'ore. Pino mi aspetta in piedi, ancora con il giubbotto addosso e un berretto in mano. È venuto in bicicletta, che coraggio! È anche abbronzato e mi sento un po' invidiosa. Mentre lui parla, registro la sua voce, ma cerco di registrare anche le sue e le mie emozioni. La stanza che ci hanno dato è completamente bianca. Mi ricorda il mio viaggio fin qui. Alle pareti non c'è nulla. C'è qualche sedia, un tavolo. Ma noi cominciamo. Lui parla di partenza e io parto con lui. E ci avviciniamo a Città del Messico. Ogni volta faccio in modo di arrivarci la sera, preferibilmente, perché lo spettacolo ogni volta mi emoziona ed è come se fosse la prima volta. Questa distesa come colata lavica di luci all'infinito. È l'aereo che comincia a sorvolarle e passano i minuti, passa un quarto d'ora, a volte mezz'ora, e non finisce mai. Quando finalmente si atterra, poi c'è quell'altra sensazione che ogni volta aspetto di sentire, ed è con gli odori, con l'aria, con la zaffata. Quest'aria che per tanti può essere una puzza, ma che per me è un profumo che, di cui provo nostalgia se mi manca per troppo tempo, ed è questo misto di, sì, gas di scarico d'ogni sorta, frutta macerata, verdure che forse sono andate un po' in là col tempo, però profumi dolciastri, comunque un misto di tropico e metropoli, che è qualcosa di assurdo, paradossale, forse di contronatura in assoluto, ma che messo tutto assieme, ecco, mi dà la sensazione di essere tornato a casa. La vita va sentita, annusata, respirata per essere registrata, anche perché l'olfatto è il senso più vicino alla memoria. Quante volte ci capita di sentire un profumo e di partire subito per un viaggio che ci porta a casa di un'amica, in quell'albergo, in quella strada di quella città. Chissà quanta aria di Messico ha respirato Pino, quanta gliene è rimasta addosso dopo tutti questi viaggi. A me sembra addirittura di sentirla in questa sala. Compagni di viaggio torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta. In autostrada le uniche segnalazioni riguardano traffico intenso con code sulla A7 in uscita a Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Ancora un po' di nebbia poi a ridurre la visibilità sulla A4 tra Sirmione e Brescia e sulla A6 Torino-Savona tra Torino e Marene. In città a Milano segnaliamo che da qualche ora è chiusa per un grave incidente corso di Porta Venezia tra via Senato e via Boschetti in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Messico con Pino Cacucci. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo arrivati a Città del Messico, la megalopoli più grande e popolosa del mondo. Dalla libreria di sotto arrivano delle voci, gente che ride, che parla, rumori che entreranno sicuramente anche nella nostra registrazione. Ma sì, non importa, anche perché immagino sia niente in confronto a quello che si sente una volta entrati in Messico. Cammino per strada e... ed è la voce umana quella che prevale. Anche nel centro di Città del Messico, dove ovviamente tra camion con la marmitta sfondata o autobus strombazzanti e strombonanti, insomma, il frastuono da traffico c'è, ma viene quasi sempre sovrastato dalle voci umane. Voci non di persone che sbraitano fra di loro, perché i messicani sono molto... ovviamente sto generalizzando e non lo dovrei fare, però diciamo c'è un'indole molto riservata, molto discreta. È difficile che si sentano dei messicani, che so, litigare ad alta voce o sbraitare per chiamarsi. Però quelli che sbraitano sono tutti gli altri, cioè quelli che vendono qualcosa e quindi declamano stupende doti delle cose che vendono. E poi ci sono i momenti di silenzio che ti stupiscono e che ti ammaliano. Che so, anche a Città del Messico, svolti, sei su una avenida a 8 o 12 corsie, svolti in un vicolo, ti ritrovi in un quartiere che sembra fermo al 600 o al 700 e due o tre strade dopo c'è il silenzio, eppure sei ancora nella metropoli. Ancor più quando giri, che so, al mattino presto in un qualche paese a maggioranza indigena e chiunque incontri ti saluta sommessamente, ma tutti ti salutano, e questo suono dei passi con l'eco a volte, anche quello è un qualcosa che ti resta come un eterno ricordo, insomma, e che ti manca quando non ce l'hai, no? Con questi due estremi, insomma, il frastuono che ti avvolge, ti accompagna e in qualche maniera ti dà il senso di una vita intensa, e poi quegli improvvisi attimi di rarefazione assoluta dove il solo fatto di incontrare qualcuno e salutarlo ti fa sentire meno straniero o addirittura non straniero. A proposito di stranieri, a un certo punto nella sala entra un signore. Senza dire nulla, senza nemmeno salutare, si accomoda su una sedia in fondo e comincia a sfogliare il suo giornale. Mi faccio anche distrarre dal rumore delle pagine, ma basta il tono della voce di Pino, il suo sorriso, che ritorno subito in Messico. Come puoi non sentirti a casa, dove la gente per strada ti saluta? Ha ragione lui a provare nostalgia per il Messico. Poi c'è la musica può uscire da qualsiasi porta o finestra, anche se, attenzione, cioè, sempre parlando di un'indole più diffusa, non c'è un'allegria un po' carnascialesca che pervade ogni zona del Messico. È più facile trovare un'indole malinconica e triste nei messicani che un'indole allegra. Certo, cambiano le cose quando uno è, che so, a Veracruz, che siamo sul golfo davanti a Cuba, e lì c'è un andazzo più cubano che messicano, quindi dipende dove si è. Sul mare in genere la musica è molto più forte, molto più presente, sui mezzi pubblici ogni autista, in base ai suoi gusti musicali, te li propina finché dura il viaggio, insomma, e più sei, ripeto, al caldo e più sono forti queste musiche. Ma tornando anche nella metropoli, basta entrare in un locale, in una cantina soprattutto, e trovi sempre qualcuno che suona, spesso anche molto bravi, ma anche per la strada. Per la strada poi ci sono quelli che non volendo essere semplicemente dei mendicanti, ma ti chiedono un obolo cantandoti una canzone o suonando uno strumento. L'immagine che mi viene subito in mente è quella dei mariachi, i suonatori a pagamento che aiutano mariti o fidanzati a farsi perdonare cantando sotto alla finestra della rispettiva moglie o fidanzata. Succede solo nei film e in Messico. Ma il Messico è così. Un eccesso di tutto, di razze, di varietà musicale e culinaria, di arte e storia, di colori e sapori. Tutto in Messico mi dà la sensazione di essere all'estremo, tutto è portato all'eccesso, i sapori sono forti, inebrianti come gli odori, penetrano, però attenzione, non è tutto piccante. Sì, è vero che la cucina messicana è molto piccante, ma alcuni piatti non è che mettano per forza il peperoncino ovunque. Quello che stupisce fin dal primo approccio con questo variegato paese è appunto la sua più che variegata cucina. Innanzitutto con un senso cromatico veramente straordinario. A me è capitato di mangiare nei posti più umili e sperduti, ma se anche ti devono fare due uova fritte, nessuno si sognerebbe di uscire dalla cucina con le due uova fritte e basta nel piatto. Devono comunque creare qualcosa che tu per un po', per qualche istante, magari sei affamato, ma ti fermi e guardi e dici a te stesso: ma pensa un po' come sono riusciti a fare una piccola opera d'arte di colori, usando magari carote, un po' di verza, il prezzemolo, che è molto particolare quello messicano perché sembrano delle fioriture complesse, insomma, piccoli dettagli che comunque rendono quel piatto con due uova al centro un qualcosa che ti dispiace di infrangere perché ti sembra che ci abbiano messo veramente un senso artistico nel farlo. Io qualcosa cucino, ma non sono sicura che nei miei piatti possa bastare qualche decorazione per renderli più invitanti, soprattutto quando mi metto a fare i piatti messicani. Perché sembra facile, ma in mezzo alle cose semplici, alle due uova fritte, ci sono una varietà infinita di piatti complicatissimi e se il piatto si complica la vita di chi deve cucinarlo. La cucina tradizionale degli Aztechi e dei Maya che si mescola a quella degli spagnoli. Storie di millenni in un meticciato di sapori. Solo a parlarne è complicato. Mi sta venendo fame. Lo guardo mentre mi parla con tanto trasporto di cibi stupendi e mi domando se anche a lui è venuta fame. Ma non se ne parla. È già diretto verso un mercato. È un viaggiatore instancabile. E quindi c'è questa continua commistione, questa continua coniugazione tra sapori e colori. Colori e anche profumi che poi raggiungono il tripudio, l'apoteosi nei mercati. Ogni paesino, città o metropoli del Messico ha dei mercati che da soli valgono la pena di andare lì. E quindi c'è questo impatto prima ancora di entrare magari nel magma di persone che si accalcano nei mercati, prima ancora di vedere, senti con l'olfatto questi profumi di spezie d'ogni sorta. Se poi a questo aggiungiamo che in ogni mercato c'è il settore dei fiori e i messicani amano i fiori in una maniera straordinaria, non c'è casa, anche la più umile, che non abbia i suoi vasi fioriti, poi aiutati dalla natura, che insomma in ogni periodo dell'anno là si può far fiorire qualcosa. E quindi ecco, addentrarsi nella zona dei fiori, c'è veramente da perdere la testa e da sentire un capogiro per i tanti colori che si vedono. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Messico con Pino Cacucci. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Bologna ed è una fredda mattina di dicembre. Mi sto facendo accompagnare da Pino Cacucci alla scoperta del Messico. Sì, ho deciso che gli scrittori sono degli ottimi compagni di viaggio. In fondo leggere è un po' come partire per qualche luogo che l'autore ci vuole far conoscere. Perciò, eccomi alla Feltrinelli Zanichelli in Piazza Galvani per fare un'intervista. Pino mi racconta e io registro, non solo con un microfono, ma anche con l'immaginazione che lui non fa che sollecitare con le sue storie. Siamo nella sala che ci hanno messo a disposizione, ma è come se fossimo già stati a Città del Messico, per la strada in mezzo al caos, ma anche in stradine silenziose. Siamo già stati a mangiare qualcosa, abbiamo preso una corriera per Veracruz e abbiamo ascoltato musica ad alto volume per finire poi in un mercato in mezzo ai profumi e ai sapori del Messico. Un viaggio sensoriale. La domanda che adesso mi viene in mente di fare, però, è su qualcosa che non si può né vedere né toccare, ma che se uno pensa al Messico, viene subito alla mente: la spiritualità. Anche in questo il Messico è apparentemente paradossale o contraddittorio, perché siamo nel paese più laico che si possa immaginare, sancito proprio dalla Costituzione, sancito per legge. Ultimamente, forse con qualche mancanza, ma nei confronti di una Costituzione che comunque impone l'assoluta laicità non solo dello Stato, ma la impone anche alla Chiesa, nel senso che ufficialmente i sacerdoti non potrebbero neanche girare con l'abito talare per le strade, insomma, devono fare i preti dentro la Chiesa e dentro il convento, fuori sono cittadini qualsiasi. Questo apparentemente è così da ormai un secolo, ma al tempo stesso siamo tra il popolo forse più permeato da un senso di religiosità che si possa immaginare. Una spiritualità che poi risale alle radici ancestrali indigene, per cui troviamo spesso un sincretismo a volte apparentemente incomprensibile, insomma questa mescolanza tra riti che potrebbero apparirci pagani insieme a riti cattolici, ma di un cattolicesimo molto sui generis. Però ecco, una cosa certa è che la spiritualità è molto forte, molto presente in ogni manifestazione della vita quotidiana. Ma quello che io voglio sentirmi raccontare sono le storie sulla magia, quelle che ho letto in molti libri di scrittori messicani, quello che uno immagina esista davvero nella quotidianità di chi vive in Messico. Nel frattempo il signore in fondo alla sala continua a leggere il giornale e gira le sue pagine facendo sempre più rumore. Forse è un modo per farci capire che questa parte del viaggio che ormai sta facendo con noi non gli interessa. Peccato, perché per me invece e anche per Pino, a giudicare dal suo tono di voce, la magia messicana, o almeno quella che noi chiamiamo magia, è molto affascinante, anzi forse addirittura fondamentale se si vuole capire il Messico. Poi c'è tutto quello che noi chiamiamo magia, che però è un termine che usiamo noi, perché tutto ciò che ci sembra o surreale, come diceva André Breton, innamorato del Messico, oppure magico, per tanti messicani è la realtà quotidiana. Paco Taibo dice che se Kafka fosse nato a Città del Messico avrebbe fatto il cronista di Cronaca Rosa, perché bene o male lì è l'assurdo è di casa, non si può immaginare niente di più assurdo della vita a Città del Messico, secondo lui. Ma ecco, anche il senso di magia, no? Che cos'è poi alla fine? Qualcosa che noi non riusciamo a spiegare, che noi non riusciamo a comprendere, ma che in qualche modo accade, e che in tanti modi i messicani dicono: beh, se accade è normale, perché vuoi spiegarlo per forza? E in effetti accadono cose che non hanno spiegazioni con la razionalità, non le puoi interpretare e far passare attraverso il filtro della razionalità, accadono e basta. A parte l'immagine di Kafka, che scrive tra filetti di Cronaca Rosa che non riesco a togliermi dalla testa, cerco di concentrarmi su quello che Cacucci mi sta raccontando, anche perché sento che sta per arrivare una parte che mi interessa da vicino. Sentite. E lì arriviamo anche poi a fenomeni che ancora una volta noi travisiamo e inquiniamo. L'uso per esempio del peyote, no? Che molti confondono con un fungo allucinogeno, ma il peyote non è né un fungo né allucinogeno, è un cactus che cresce solo in una determinata zona del deserto a nord del Messico, ovviamente, le zone desertiche sono tutte a nord, ma in una precisa zona e non altrove, in quell'unico luogo del mondo è lì e basta, e da millenni gli indios, non solo di quella zona, anzi gli indios Huicholes che fanno il rituale del peyote neanche vivono lì, ma lì hanno la loro montagna sacra, e sparsi in vari altri stati fanno quasi sempre a piedi per tradizione, ma comunque anche con le corriere, insomma, questa lunga peregrinazione una volta all'anno per ritrovarsi tutti, o quantomeno ritrovarsi quelli che possono, i loro sciamani, i loro dottori, insomma, in qualche modo, i loro curanderos. E fanno questo rito del peyote che dura giorni e notti e settimane, che è anche un rito di purificazione, cioè bevono solo acqua e masticano pezzetti di peyote. Poi, che a noi possa far sorridere o affascinare il fatto che sono convinti, dopo un tot di giorni e notti, di questa sorta di purificazione o depurazione dell'organismo, perché poi il peyote depura, di fatto è anche un toccasana che ci ha dato madre natura per curare tanti malanni del corpo, no? Soprattutto depura fegato e intestino, insomma, quindi è anche una cosa curativa quella che fanno. Al di là poi dei casi più eclatanti come quello del rituale del peyote, che molti forestieri invece, dicevo prima, c'è questa forma di inquinamento, insomma, considerano come se fosse una droga da andarsi a sballare, per cui ti ritrovi ogni tanto che gironzolano per il deserto dei curiosi individui, magari a volte tardo fricchettoni o neo fricchettoni, che però alla fine molti di loro alla loro maniera sono rispettosi, cioè non è che pensano di prendersi il peyote e portarselo in città e mangiarselo in mezzo al traffico. Qualche pazzo lo fa, ma poi non c'è rimasto bene, insomma. E quindi insomma li vedi che vagano per giorni e notti marciando, perché tutte le energie che gli dà il peyote fanno sì che possano camminare per tante ore. Però ecco, questo è un nostro modo un po' imbastardito di intendere la cosa, no? La voglia di stonarci. Ed è la stessa voglia di stonarci che abbiamo con l'alcol. Certo, i messicani come bevitori forse non sono secondi a nessuno, però anche questo fatto che è rarissimo che uno si sbronzi da solo, no? come a volte invece accade all'occidentale, insomma, al forestiero. E comunque anche il bere è un rito collettivo. Mi piace la parola rito associata al bere. E se si parla di Messico e di alcol, non si può non parlare della tequila, o meglio del tequila, perché Pino mi spiega che è un termine di derivazione azteca e che il finale in A, per gli aztechi, è maschile. E come il peyote, anche in questo caso, siamo alle prese con un cactus, l'agave azul. Dentro questo sapore tu c'hai millenni di storia che i messicani sono felicissimi di raccontarti e di tramandare, spiegandoti magari in maniera molto prolissa come fare a distinguere la tequila vera da quella quasi fasulla, insomma, già dall'etichetta, insomma, perché poi la legge è molto severa e quindi se non c'è scritto 100% agave azul o quantomeno 100% agave, intanto non stai bevendo tequila. Anche il signore col giornale che è entrato mezz'ora fa nella nostra sala e che si sta facendo tutta l'intervista con noi, ormai sa che se vuole bere un vero tequila deve stare attento all'etichetta, anche se la sua faccia è più da sangiovese. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Messico con Pino Cacucci. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il Messico ormai è entrato nella sala di una libreria bolognese. Sono con Pino Cacucci che mi sta portando in giro coi suoi racconti. Quando avevo letto il suo libro, La polvere del Messico, avevo provato una forte curiosità verso questo paese. Ma adesso che mi sta descrivendo di persona le sue sensazioni di grande conoscitore del Messico e della messicanità, la mia curiosità aumenta. Proprio la messicanità, cioè questa la mexicanidad, come ha tentato di spiegare, di narrare Ottavio Paz soprattutto, ma non solo lui, tantissimi altri scrittori, questo senso del vivere, ma anche forse filosofia del vivere, è permeato fortemente da un orgoglio fortemente radicato. C'è una fierezza nei messicani, senza poter certo generalizzare, è sempre sbagliato generalizzare, però ecco, il forestiero, come tutto sommato sono sempre io quando arrivo lì, ha questa sensazione di trovarsi di fronte a una grande dignità in ogni situazione. Non c'è nessuna regola scritta, nessuno te le spiegherà mai, ma senti che comunque il rispetto è la prima cosa. Proprio per questo forte senso dell'orgoglio. Poi diventa anche orgoglio nazionale. All'occhio del forestiero tante manifestazioni possono sembrare paccottiglia patriottarda, e invece no, c'è sempre un fondo che appunto torna a queste radici ancestrali spesso. L'orgoglio di cui i messicani si sono riappropriati rispetto alle proprie radici indigene. Anche a me sembrerebbe Pacottiglia patriottarda, come la chiama lui, ma poi mi racconta di quando è andato a vedere, su consiglio di un amico, l'alzabandiera a Città del Messico. E da come me la racconta, credo che forse è il caso di non perdersela se si è da quelle parti al mattino presto. È un rituale questo del dispiegare questa bandiera che, vedendo la terra, veramente è smisurata. Poi quando è in cima a questo enorme pennone, ovviamente la vedi sventolare dal basso e sì, sembra grande, ma non quanto è grande in spalla a questa lunga fila interminabile di soldati. E così con la musica, qualche passante che si ferma e si mette la mano sul cuore, perché così salutano i messicani la bandiera, capisci perché era imperdibile, capisci tante cose anche dell'anima messicana e non solo degli abitanti di Città del Messico, e capisci soprattutto che in Messico non devi mai confondere il becero nazionalismo con l'amore per le proprie radici. Ascolto le sue parole sull'orgoglio nazionale, che non so perché associo a qualcosa di maschile, e intanto sento nascere una nuova curiosità. In tutti questi anni di Messico, di rapporto con i messicani e la loro cultura e la loro storia, quale sarà l'immagine che Cacucci si è fatto delle donne messicane e del lato femminile di questo paese? In tutto questo io ho sempre avvertito che le donne forse sono ancora più fiere e dignitose degli uomini in Messico. Se c'è qualche situazione in cui magari qualcuno si umilia, stai tranquillo che è più facile che lo faccia un uomo, è difficile che trovi una donna messicana, specie se è indigena. Questa, come spiegare, quando vai in zone del Messico come il Chiapas, dove la stragrande maggioranza delle persone sono di etnie indigene, ma anche nel nord ci sono tante zone dove ancora ci sono comunità indigene, nel centro, insomma, e anche nella stessa capitale, Città del Messico, tanti indios vengono per sopravvivere, vendere le proprie cose, i propri oggetti di artigianato. Ecco, lì il contatto con le donne che fanno le venditrici in qualche modo è sempre qualcosa che ti stupisce, perché c'è un'innata dolcezza nel proporti qualsiasi cosa vogliano vendere, ma al tempo stesso mai un piegarsi e umiliarsi perché tu magari in tasca hai soldi e per loro rappresentano la sopravvivenza. E poi questo, nella storia dell'ultimo secolo, può essere, insomma, in qualche modo non è soltanto contatto quotidiano della persona che arriva lì e constata queste cose, è anche la storia del Messico recente, contemporaneo, che ci racconta quanta importanza, quale ruolo abbiano avuto e continuano ad avere le donne nei cambiamenti sociali. Intanto dobbiamo tener conto di un fatto che ribalta completamente la visione superficiale del machismo messicano. Sì, vabbè, è un atteggiamento che si incontra facilmente, ma spesso può essere anche una forma di galanteria che non ha poi quel risvolto volgare che ci vediamo a prima vista. E qui sorrido non solo perché mi sembra un buon punto di vista quello che ribalta il machismo in galanteria, ma anche perché mi viene in mente il racconto di un amico italiano che ha vissuto per qualche anno in Messico. Viveva con una donna messicana e una mattina, al ritorno da una serata dove era stato in giro a bere e non era rientrato per la notte, ovviamente senza avvisare, lei lo stava aspettando sulla porta di casa. La strada era piena di gente, c'era il mercato. Lui si avvicina con l'aria un po' colpevole, ma non troppo, e lei in tutta risposta gli dà uno schiaffo di quelli da far girare la testa. Ecco, lui me l'ha raccontata come una delle cose più belle che gli fossero mai capitate in amore. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Si parla di Messico e si parla di donne. Cacucci prosegue il suo viaggio e io cerco di stargli dietro. Dobbiamo sempre tenere conto che in Messico è molto più diffuso il matriarcato del patriarcato. Questo soprattutto nelle comunità indigene, quasi sempre sono le donne che portano avanti la casa, il villaggio, che partecipano alle assemblee e decidono cosa fare. Quindi tutto ciò, considerando appunto che una grossa parte dei messicani sono indigeni, quindi non è che stiamo parlando di piccole riserve che non influiscono minimamente, che aspettano che i turisti vadano a vederli come se fossero dei reperti archeologici o antropologici, no, sono comunque persone che incidono nonostante tutto, nonostante siano sempre stati emarginati, ma che incidono nelle abitudini di intere zone del Messico. E questo in qualche maniera lo troviamo anche nelle città, a parte il fatto che le tantissime ragazze madri, insomma le tantissime donne che portano avanti la famiglia senza un uomo, perché possono essere semplicemente vedove e vabbè, molto più probabilmente sono senza un uomo perché l'uomo è andato di là dalla frontiera a cercare una fonte di sopravvivenza e quindi poi la donna rimane a casa e tira avanti i figli. E così via, insomma, oppure perché semplicemente hanno avuto un figlio e l'uomo non c'era dal giorno dopo, insomma. Però ecco, la stragrande maggioranza dei casi è dovuta all'emigrazione. E quindi noi ci ritroviamo da tanti anni con una società che è portata avanti molto più dalle donne che dagli uomini. Tutte queste donne a casa, mentre a superare la frontiera per andare a cercare fortuna ci vanno gli uomini. Dove ve ne andate? In Messico. Allora chi sono? Sono mia responsabilità. Signori, le devo chiedere di scendere dalla macchina. Perché? Scenda dalla macchina, prego. Le ho detto spiegare. Di scendere dalla macchina. Faccia quello che le dico. Scenda dalla macchina. Mi viene in mente Babel, solo per citare uno dei tanti film che ne parlano, e l'angoscia che io vedo legata a quel confine e agli uomini e alle donne che hanno tentato di superarlo, spesso senza riuscirci. Ma lui me la racconta da un'altra prospettiva. È anche una ferita aperta, perché è la fonte di sofferenze per i tanti che provano ad andare di là e vengono trattati come se fossero delinquenti, quando in realtà appunto contribuiscono alla ricchezza. È una ferita aperta perché ricorda ai messicani che tutto quello che c'era di là una volta era il loro e se lo sono preso ed è diventato così tanto ricco, mentre loro non sono diventati così tanto ricchi, anche se poi ci sono sempre più messicani individualmente che compaiono nella lista dei 100 uomini più ricchi del mondo. Ed è un simbolo ed è qualcosa di molto concreto, è qualcosa con cui fare i conti tutti i giorni con la frontiera. Però ecco, non è solo odio, non è solo amore, ma è un continuo mescolarsi. Il signore col giornale è uscito e non me ne sono nemmeno accorta. Forse perché ha capito anche lui che il viaggio è finito e che siamo tornati a Bologna. Pino sembra soddisfatto di avermi fatto fare questo giro. Il Messico dei suoi racconti adesso è anche un po' mio. Usciamo dalla stanza, ringraziamo e andiamo a bere il famoso caffè in un bar lì vicino. Mentre gli chiedo, senza microfono stavolta, quando ha in programma di partire, mi confessa che sono 2 anni che manca dal Messico e non può più aspettare. Prendo i soldi per pagare, ma lui mi ferma e mi dice: non si è mai visto un caballero messicano far pagare una signora. Forse non è vero che il viaggio è finito. Forse siamo ancora in Messico. Compagni di viaggio. Ora Pino Cacucci è in libreria con Viva la Vida, edito da Feltrinelli. Compagni di viaggio. Testi di Morena Rossi, voce di Adele Pellegatta.